140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Pluripremiato autore, amato dai critici, finalmente si fa conoscere dal grande pubblico. Io non ho finito è il nuovo album. Niccolò Agliardi. Io ho fatto indubbiamente un percorso tortuoso, ma più curve ho fatto, più ho visto cose. Ho visto anche dei boschi, ho visto anche un po' di pericoli, ho visto un po' di rupi, ma ho fatto un bellissimo viaggio, sto continuando a fare un bellissimo viaggio. Mi sento davvero un privilegiato, quantomeno per le persone straordinarie che ho avuto modo di conoscere da quando ho deciso di fare musica. Sono un cantautore che ha scritto un album che appunto porta un titolo che io non ho finito. Io arrivo a 40 anni e non vorrei apparire, insomma, un po' scontato quando si dice che a 40 anni effettivamente si comincia forse una vera e propria vita, però è così. Cioè, io non ho finito, ma perché sostanzialmente le cose belle sono cominciate da poco. Io ho seminato molto in questi anni e adesso vedo degli alberelli sanissimi, belli, strutturati, con delle buone radici. Alberelli, viaggio e ovviamente mi viene a dire colline, the hills, ma cioè, ti sei trasformato nel frontman di una band per questo disco. Sì, mi piace molto, mi diverto molto, ci vogliamo molto bene, litighiamo molto come delle famiglie allargate, ma litighiamo per andare tutti nella stessa direzione. Sono 5 ragazzi molto bravi, molto talentuosi, cioè noi siamo un gruppo che lavora insieme e che scrive canzoni insieme e possiamo permetterci di farlo appunto sulle colline di Tortona, laddove loro hanno preso il nome, o possiamo permetterci di farlo su un furgone o in tour o a casa mia o anche facendo dei viaggi, e se non è una fortuna questa non so quale altre siano fortune. Non ho bisogno di te per poterti indovinare, tu non dormi da mai. Io sto sveglio da troppe ore, so così tanto di te che è un peccato non sbagliare. E ti sento dall'orgoglio che è un brandello di noi. Ci sono dei featuring molto particolari, inattesi. Davvero inattesi in questo disco. I featuring nascono, secondo me dovrebbero nascere a livello discografico soltanto per ragioni affettive, anche perché quelle commerciali oggi sono quasi inutili, mi viene da dire, quindi tanto vale provare a coinvolgere persone a cui si vuole bene. Allora sono inusuali e anomale le mie, perché stiamo parlando di Mischilla e di Mauro Ermanno Giovanardi. Ovviamente abbiamo grammatiche e linguaggi differenti, però passo stravolentieri una serata bellissima con uno e anche con l'altro. Sarebbe divertente provare a metterli insieme, non so che cosa si direbbe. Non vado a tempo io, nemmeno qui, dove fingere è permesso, dove il compromesso è naturale e all'inizio intuisci il finale che avrà. Non è mai stata dritta la strada per la felicità. In prestito tramonto, lo disco, lo smonto, lo canto e si è spento ormai. Qualche volta ancora sento, ma quando racconto l'assurdo non sarà mai più profondo del vero. Sei stato protagonista negli scorsi mesi, uno dei protagonisti di questo delirio collettivo chiamato Braccialetti Rossi. Che cosa ti ha dato questo, al di là della notorietà che comunque non è poco questo fenomeno. Braccialetti Rossi è una storia di televisiva che racconta di sei ragazzi che vivono un periodo di ospedalizzazione in maniera molto dolce, molto aggregante, ed è un'onda che non si arresta, non si è ancora andata ad infrangere sulle rocce. Abbiamo suonato recentemente a Porto San Giorgio in un palazzetto gremito di ragazzini felici. È come se si fosse generata una veramente un'ondata di bene. Poi non serve nemmeno che ti racconti il bene che ha conquistato me, che ha abbracciato me, i miei nuovi sei fratelli che sono i protagonisti, certo, e poi quindi la notorietà, va bene, è divertente, però non è, a 40 anni non si cerca quello, ecco. Non essere triste, amore mio, ci metto il coraggio che parte del tuo. A volte ci perdiamo i sottotitoli del cuore, a volte ci perdiamo, a volte io non ho finito. Posto che il viaggio è sempre imprevedibile, perché si possono pianificare le tappe, ma gli imprevisti sulla strada sono gli imprevisti, le sorprese, no? Come Monopoli, imprevisti, sì. E possibilità. Le prossime tappe che vedi? Vedi, quando si fa un viaggio, chi viaggia lo sa, si impara in fretta che se non passa un autobus passerà il prossimo. Quello che Fabrizio De André diceva per la stessa ragione del viaggio: viaggiare. Non mi interessa adesso cosa succederà nei prossimi viaggi, mi interessa viaggiare. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Niccolò Agliardi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.